Capitolo 24. La mattina seguente, Harry Crawford aveva ormai fermamente deciso di fermarsi a Mansfield una quindicina di giorni e, avendo mandato a prendere i suoi cavalli da caccia e scritto poche righe di spiegazione all'ammiraglio, gettò un'occhiata alla sorella mentre sigillava la missiva e la metteva da parte. E, vedendo che nessun altro membro della famiglia era portato d'orecchio, disse con un sorriso: «E come pensi che io abbia l'intenzione di distrarmi, Mary, durante i giorni in cui non andrò a caccia? Ormai sono troppo vecchio per andarci più di 3 volte la settimana, ma ho un progetto per occupare i giorni intermedi. Quale pensi che sia?» «Oh, passeggiare, uscire a cavallo con me, senza dubbio.» «Non esattamente, anche se sarò felicissimo di fare l'una e l'altra cosa, ma si tratterebbe solo di un esercizio fisico e io devo prendermi cura della mia mente oltre che del corpo. Inoltre sarebbe solo fonte di divertimento e di autocompiacenza, senza il sano amalgama dell'impegno, e a me non piace mangiare il pane dell'ozio. No, il mio progetto consiste nel far innamorare di me Fanny Price.» «Fanny Price? Che assurdità! No, no, dovrebbero bastarti le sue 2 cugine. Ma non posso sentirmi pago senza Fanny Price, senza intaccare leggermente il cuore di Fanny Price. Non sembra che tu ti renda esattamente conto dei suoi diritti ad attirare l'attenzione. Quando abbiamo parlato di lei ieri sera mi sono accorto che voi, nessuno di voi, ha notato lo straordinario miglioramento che si è prodotto nel suo aspetto in queste ultime settimane. L'ha incontrata ogni giorno e perciò vi sfugge, ma ti assicuro che è una creatura del tutto diversa da quella che era durante l'autunno. Allora era semplicemente una ragazza silenziosa, modesta, non brutta, ma ora è veramente graziosa. Prima pensavo che non avesse né una carnagione né un'espressione degna di nota, ma quella sua serica pelle che così spesso, come ieri sera, si tinge di rossore ha una vera e propria bellezza. E da quanto ho potuto osservare dei suoi occhi e della sua bocca, non dispero che sappiano essere assai espressivi, purché abbia da esprimere qualcosa. E poi la sua aria, il suo modo di fare, il suo tuo ensemble sono così indicibilmente migliorati. Deve essere cresciuta almeno di 2 pollici da ottobre ad oggi. Tutto perché non vi erano donne di alta statura con cui confrontarla, perché aveva un abito nuovo e tu prima non l'avevi mai vista così ben vestita. È esattamente come era in ottobre, credimi. Il fatto è che era la sola ragazza fra noi che tu avessi da guardare e tu devi sempre avere qualcuno su cui concentrare la tua attenzione. Io l'ho sempre trovata graziosa, non graziosissima, ma abbastanza graziosa, come si suol dire. Un genere di bellezza che si impone a poco, gli occhi sarebbero migliori se fossero più scuri, ma ha un sorriso molto dolce. Però, quanto al meraviglioso miglioramento di cui parli, sono certa che lo si possa interamente attribuire a un abito di più elegante fattura e al fatto che tu non avevi nessun'altra da guardare. Perciò, se ti metterai a corteggiarla, non mi darai mai a bere che è per la sua bellezza o che la cosa non dipende dalla tua follia o dal non avere nulla da fare.» A questa accusa, il fratello rispose solo con un sorriso e poco dopo disse: «Non so bene come piazzare Miss Fanny. Non la capisco, non saprei dire a cosa mirasse ieri sera. Qual è la sua vera natura? È austera, è strana, è ritrosa, perché ogni volta si tirava indietro e mi fissava così gravemente. Sono riuscita a malapena a farle aprire bocca. Non sono mai stato così a lungo in compagnia di una ragazza in vita mia, tentando di intrattenerle e riuscendovi così male. Non avevo mai incontrato una ragazza che posasse su di me uno sguardo così grave. Devo spuntarla. La sua espressione dice: non voglio che lei mi piaccia, ho deciso che lei non mi piacerà e io dico che finirò col piacerle.» «Che pazzo sei! Dunque è questo il suo fascino, dopo tutto, è questo, la sua indifferenza nei tuoi riguardi, che le dà una pelle così morbida e la fa crescere di statura e la orna di tutti questi pregi e queste grazie. Voglio che tu non la faccia veramente soffrire. Un po' d'amore, forse, le potrebbe dare animazione e farle bene, ma non voglio che tu la faccia innamorare davvero, perché è la più cara piccola creatura di questo mondo ed è profondamente sensibile.» «Oh, sarà solo per una quindicina di giorni», disse Harry, «e se una quindicina basta ad ucciderla, deve avere una costituzione che nulla può salvare.» «No, non le farò male, cara animuccia, voglio solo che mi guardi con gentilezza, che mi conceda sorrisi, che riservi per me una sedia vicino alla sua, dovunque ci si trovi insieme e sia tutta animazione quando io la tengo occupata. E incomincio a parlare con lei. Che pensi come penso io, si interessi a tutto quanto possiedo e mi dà piacere. Che tenti di trattenermi a Mansfield e che quando me ne andrò senta di non poter essere felice mai più. Non desidero che questo. Oh, sei la moderazione fatta persona, disse Mary. Non posso più avere scrupoli ormai. Bene, avrai occasioni sufficienti di farti apprezzare visto che ci incontriamo assai frequentemente. E senza tentare ulteriori rimostranze, abbandonò Fanny al proprio destino. Un destino che, se il cuore di Fanny non avesse goduto di una protezione che Miss Crawford non sospettava, avrebbe potuto essere alquanto più acerbo del meritato. Poiché, sebbene esistano indubbiamente fanciulle diciottenni così inconquistabili, se non ve ne fossero non leggeremo mai di loro, che tutto ciò che l'intelligenza, i modi attraenti, le premure, le lusinghe possono mettere in opera non indurranno mai a innamorarsi contro i dettami del buonsenso, non mi sento autorizzata a credere che Fanny fosse una di loro, o a pensare che con una indole così incline alla tenerezza e dotata di buon gusto come la sua, sarebbe uscita col cuore intatto dal corteggiamento, anche se da un corteggiamento di soli 15 giorni, di un uomo qual era Crawford, e ciò a dispetto delle prevenzioni sul suo conto, se il suo amore non fosse stato impegnato altrove. Con tutta la sicurezza che l'amore per un altro e la disistima per lui potevano dare alla pace interiore che egli si preparava ad insidiare, le sue continue attenzioni, continue ma non invadenti e che si modellavano sempre più sulla gentilezza e sulla delicatezza del carattere di lei, la costrinsero ben presto a trovarlo meno sgradevole di quanto le fosse prima. Non aveva affatto dimenticato il passato, non pensava di lui meno male di quanto facesse una volta, ma riconosceva tutta la forza della sua attrazione. Mr. Crawford era divertente e i suoi modi erano talmente migliorati, così cortesi, così seriamente, impeccabilmente cortesi, che non era possibile non contraccambiarlo con pari cortesia. Furono sufficienti pochissimi giorni per ottenere questo risultato. E in capo a questi pochi giorni avvennero alcuni fatti che contribuirono a rinsaldare il proposito di lui, tanto più che a Fanny apportarono tanta felicità da renderla propensa a sentirsi ben disposta verso tutti. William, il fratello tanto amato e assente da così lungo tempo, era nuovamente in Inghilterra. Aveva ricevuto una sua lettera, poche righe felici ed affrettate, scritte mentre la nave risaliva la Manica e fatta giungere a Portsmouth con la prima scialuppa che si era staccata dall'Antwerp, ormai ancorata a Spitfield. Quando Crawford giunse tenendo in mano il giornale, col quale sperava di portare per primo la lieta notizia, la trovò che tremante di gioia stringeva fra le dita la lettera appena letta e ascoltava con espressione di raggiante gratitudine la risposta. Un invito a Mansfield Park che lo zio stava dettando con ponderata cordialità. Solo il giorno prima Crawford era venuto in possesso di tutti i particolari riguardanti l'Antwerp, anzi, solo il giorno prima aveva appreso che lei aveva quel fratello e che era imbarcato su quella nave, ma l'interesse che aveva subito preso alla cosa era stato vivissimo, così vivo da spingerlo a recarsi in città e a chiedervi informazioni circa la probabile data in cui l'Antwerp avrebbe fatto ritorno dal Mediterraneo, eccetera, eccetera. Quando la mattina seguente diede per prima cosa una scorsa al bollettino navale, il successo del suo metodo di ricerca sembrò premiare l'ingegnosità con cui aveva escogitato quel mezzo per compiacere Fanny, nonché il suo devoto ossequio per l'ammiraglio che ormai da anni lo induceva a prendere quel giornale, da lui considerato come il più aggiornato su tutto quanto atteneva alla flotta. I fatti, tuttavia, provarono che giungeva in ritardo. Tutti quei felici primi sentimenti che aveva sperato di essere lui a suscitare erano già stati vissuti, ma la sua intenzione, la gentilezza della sua intenzione fu riconosciuta con gratitudine, con viva gratitudine e con grande calore, poiché lo slancio dell'amore che portava William le aveva fatto vincere in quel momento la sua abituale timidezza. E presto il diletto William sarebbe stato tra loro. Senza alcun dubbio avrebbe ottenuto immediatamente una licenza, poiché era ancora solo una guardia marina e siccome i suoi genitori, abitando nelle immediate vicinanze della base, l'avevano certamente già visto, e probabilmente lo vedevano ogni giorno, la sua vera e propria licenza poteva giustamente essere dedicata alla sorella, che era stata sua assidua corrispondente durante 7 anni, e allo zio, che aveva contribuito molto al suo mantenimento e al progredire della sua carriera. E infatti la sua risposta di William alla lettera della sorella giunse sollecitamente, indicando per il suo arrivo una data molto vicina. Erano passati appena 10 giorni da quando Fanny aveva vissuto l'agitazione del suo primo invito a pranzo, quando si trovò tutta presa da un'altra agitazione di ben più alta natura, mentre attendeva ora nel vestibolo, ora nell'ingresso, ora in capo alla scalinata esterna, pronta a cogliere il primo suono della carrozza che portava da lei il fratello. Lo udì felicemente mentre se ne stava così in attesa, e non essendovi né cerimonie né timori a ritardare le espansioni dell'incontro, fu con lui nel momento stesso in cui egli metteva piede in casa, e il primo minuto del delizioso abbraccio non subì ritardi, non ebbe testimoni, se non si vogliono considerare tali domestici unicamente intenti ad aprire una porta dopo l'altra al loro passaggio. Era esattamente quanto Sir Thomas e Edmund avevano disposto, ciascuno per proprio conto, come poi scoprirono, quando, con concorde alacrità, avevano consigliato Mrs. Norris di starsene dov'era, trattenendola dal precipitarsi nel vestibolo non appena il rumore della carrozza giungesse alle loro orecchie. William e Fanny comparvero ben presto, e Sir Thomas ebbe il piacere di accogliere nella persona del suo protetto un giovane certo diverso dal ragazzo che aveva equipaggiato per il primo imbarco 7 anni addietro, un giovanotto dal volto aperto e simpatico, dai modi franchi, spontanei, ma corretti e rispettosi, per il quale fu lieto di riprovare la stima e l'amicizia di una volta. A Fanny occorse un po' di tempo per superare quel tumulto di sentimenti, quei 30 minuti di attesa e poi quei 30 minuti di appagamento. Anzi, le occorse persino un certo tempo prima che l'intensa felicità le permettesse di sentirsi felice, prima che svanisse l'inevitabile disorientamento prodotto dalla trasformazione che gli anni avevano apportato al fratello, ed essa potesse vedere in lui lo stesso William di un tempo e riuscisse a parlargli come il suo cuore aveva anelato di fare durante tutti quegli anni. Quel momento, tuttavia, giunse a poco, affrettato da parte del giovane da un affetto caldo quanto quello di lei, e assai più libero da eccessive finezze o inibizioni. Fanny era la persona che gli amava più di ogni altra, ma uno spirito più forte e un'indole più saldamente equilibrata lo rendevano capace di esprimere questo amore con la stessa spontanea naturalezza con cui lo sentiva. Già la mattina seguente se ne passeggiavano insieme in perfetto accordo, e ciascuno dei giorni successivi rinnovò la gioia di un dialogo che Sir Thomas non poteva non osservare senza compiacenza, anche prima che Edmund lo segnalasse alla sua attenzione. Eccettuati i momenti di speciale, intima gioia che negli ultimi mesi le aveva procurato una qualche eccezionale o inattesa gentilezza di Edmund, Fanny non aveva mai conosciuto in vita sua una felicità paragonabile a quella che le dava lo spontaneo, libero rapporto da pari a pari con quel fratello amico che le apriva il proprio cuore. Le parlava di ogni sua speranza e di ogni suo timore, dei progetti e delle preoccupazioni riguardanti quella benedetta promozione, così a lungo accarezzata col pensiero, meritata a caro prezzo e stimata a suo giusto valore. Il fratello, che poteva darle informazioni minuziose di prima mano sul padre e sulla madre, sui fratelli e sulle sorelle, di cui Fanny riceveva così raramente notizie, che si interessava tanto ai lati piacevoli e ai piccoli inconvenienti della sua vita domestica a Mansfield Park, ed era pronto a stimarne ogni abitante secondo le indicazioni che lei gli dava, discostandosene al massimo per la meno scrupolosa indulgenza e le critiche più risolute con cui valutava il comportamento della zia Norris. Un fratello col quale, cosa forse più preziosa di tutte, poteva rievocare ogni ricordo, buono o cattivo, dei loro primi anni e rivivere con tenerezza le prime pene, i primi piaceri sperimentati insieme. Rapporti come questi danno tanta forza all'amore fraterno da porlo più in alto dell'amore coniugale. i figli di una stessa famiglia, nati da uno stesso sangue, plasmati dalle associazioni e dalle abitudini dei loro primi anni, conoscono gioie che nessuno degli altri successivi legami può donar loro. E può accadere, solo a motivo di un lungo e innaturale straniamento o di una separazione che nessun legame successivo può giustificare, che a volte tali preziosi residui dei primissimi affetti vadano completamente perduti. E ahimè, ciò avviene anche troppo spesso. Quell'amore fraterno, che a volte è quasi tutto, si riduce altre volte a meno che niente. Ma nel caso di William e Fanny Price, questo sentimento possedeva ancora tutta la sua freschezza, che nessun conflitto di interessi aveva intaccato, che nessun legame estraneo aveva raffreddato, che il tempo e l'assenza avevano semmai contribuito a rafforzare. Di fronte a un così amabile affetto, cresceva nei confronti di entrambi la considerazione di quanti avevano un cuore capace di valutare ciò che è buono. Harry Crawford ne fu colpito al pari di chiunque altro. Apprezzò la brusca, calda tenerezza del giovane marinaio che, la mano tesa verso il capo di Fanny, aveva esclamato: «Sai, questa strana acconciatura comincia a piacermi», e dire che quando sentì che la si adottava in Inghilterra non riuscì a crederlo. E quando a Gibilterra Mrs. Brown e le altre signore comparvero in casa del governatore, pettinate in questo stesso modo, pensai che dovevano essere matte, ma Fanny mi può riconciliare con qualsiasi cosa. E con viva ammirazione vide le guance di Fanny coprirsi di rossore. Gli occhi che le splendevano e il profondo interesse e l'attenzione assorta con cui ascoltava il fratello che descriveva qualche imminente pericolo, qualche scena terrificante di cui il lungo periodo d'imbarco lo aveva reso partecipe. Era uno spettacolo che Harry Crawford aveva sufficiente buon gusto estetico ed etico per apprezzare nel suo giusto valore. Le attrattive di Fanny apparivano più grandi, due volte più grandi, perché la sensibilità che rendeva più leggiadra la sua carnagione e ne illuminava tutto l'aspetto era di per sé un'attrattiva. Egli non dubitava più del cuore di lei, della sua capacità di sentire con forza genuina. Oh, essere amato da una fanciulla come quella, saper ispirare il primo ardore in quella giovane mente non ancora sofisticata. Fanny lo interessava più di quanto avesse previsto. Una quindicina di giorni non erano sufficienti. Il termine del suo soggiorno venne rinviato a una data indefinita. William, su richiesta dello zio, prendeva spesso la parola. Sir Thomas trovava le sue storie genuinamente divertenti, ma il suo scopo precipuo nel sollecitarle era quello di comprendere meglio il narratore, di conoscere il giovane grazie ai suoi resoconti. Ne ascoltava i chiari, semplici, vivaci particolari con piena soddisfazione, scorgendovi la conferma di buoni principi, di una seria preparazione professionale, di energia, coraggio, buon umore e tutto ciò che, insomma, poteva promettere e meritare bene. Giovane com'era, William aveva già visto molte cose. Era stato nel Mediterraneo, nelle Indie occidentali e di nuovo nel Mediterraneo. Era spesso sceso a terra grazie alla benevolenza del suo capitano e nel corso di 7 anni aveva conosciuto pericoli di ogni genere, inevitabili sul mare e in guerra. Con una simile esperienza alle spalle aveva il diritto di essere ascoltato. E benché Mrs. Norris, irritata e irrequieta, si desse da fare in giro per la stanza, disturbando tutti quanti, mettendosi alla ricerca di due agugliate di filo o di un vecchio bottone da camicia nel bel mezzo di un racconto del nipote che faceva rivivere gli episodi di un naufragio o di una battaglia, tutti gli altri ascoltavano attenti. Perfino Lady Bertram non poteva sentir parlare di quegli orrori senza esserne commossa o senza sollevare ogni tanto gli occhi dal suo lavoro per dire: «Povera me, che cose sgradevoli! Mi meraviglio che qualcuno voglia fare il marinaio!» In Harry Crawford quei racconti suscitavano sentimenti diversi. Provava l'ardente desiderio di essere stato presente e di aver visto, compiuto, sofferto tutte quelle cose. E il suo cuore si accendeva. La sua immaginazione si infiammava e provava il più alto rispetto per un ragazzo che, prima di aver compiuto i 20 anni, aveva affrontato quei rischi, quelle avversità, dando prova di possedere tanta fermezza. La luce di gloria che emanava dall'eroismo, dalla dedizione, dallo sforzo, dalla costanza di lui, per riflesso gli mostrava in vergognoso contrasto le sue proprie abitudini di egoistica dolce vita. E avrebbe voluto essere lui, il William Price, che si segnalava nell'azione e si apriva la strada verso la fortuna e il successo con tanto rispetto di sé e tanto felice ardore, invece di essere quello che egli era, di fatto. Si trattava comunque di un desiderio più ardente che durevole. Da queste fantasie retrospettive e dal rimpianto che esse suscitavano, fu riscosso da Edmund, che gli chiedeva quali fossero i suoi progetti per la giornata di caccia dell'indomani, e si rese conto che valeva la spesa di essere effettivamente un uomo ricco, con cavalli e stallieri a disposizione. Anche da un altro punto di vista, del resto, la cosa era auspicabile, visto che gli permetteva di dimostrarsi cortese quando desiderava di far piacere a qualcuno. Dotato di un vigore, un coraggio, una curiosità all'altezza di qualsiasi prova, William aveva espresso il desiderio di uscire a caccia con lui e Crawford era in condizione di mettergli un cavallo a disposizione senza sottoporsi al benché minimo inconveniente, tranne la necessità di ovviare agli scrupoli di Sir Thomas, che conosceva meglio del nipote il valore del prestito proposto, e di convincere Fanny a lasciare da parte certe sue ansie. Fanny temeva per William, non era affatto convinta, a dispetto di quanto gli poteva riferire circa la sua esperienza in fatto di equitazione e l'abilità di cui aveva dato prova nelle più svariate contrade e della sua partecipazione a gite occasionali, dei difficili cavalli, dei muli viziosi che aveva cavalcato o delle molte volte che aveva malapena evitato tremende cadute, che egli fosse in grado di montare un focoso, robusto cavallo in una caccia alla volpe nella campagna inglese. Continuò a considerare la cosa come un grosso rischio per William e non provò per Mr. Crawford quella gratitudine che egli, prestando il cavallo, aveva inteso suscitare. Questo finché il fratello non tornò a casa sano e salvo, senza incidenti e senza discredito. Allora, quando ebbe la prova che William non aveva sofferto alcun danno, poté apprezzare quell'atto di gentilezza e perfino ripagare il proprietario del cavallo con un sorriso quando l'animale fu nuovamente messo a disposizione del fratello. E la volta dopo gliene fu offerto l'uso cordialissimamente e in modo da non ammettere rifiuto per tutto il tempo del suo soggiorno nel Northamptonshire.